anche quello lì, perché so che lui lo tratta bene. Ma non l'hai più visto, non l'abbiamo più sentito veramente, ma forse ce l'ha ancora con l'apparecchio. E se me l'avrebbe dato io l'avrei preso, perché l'apparecchio mi piace, ce l'ho è anche preciso, però mi piace avere un altro. Lo so, ma penso che quella persona lì, stai dicendo tu, non è altro di apparecchiature giudicature, ma solamente tutta molto campo di veramente intendi, quindi è colpa sua, ma questo Giovanni ce l'hanno visti. Ah, ti sento bene, dai, ti sento benissimo. Un po' così, dai, però abbastanza comprensibile, ti sento bene, dai. Rosino di voce? No, va bene, comunque la radio è buonissima, ecco. Attone perché sta usando la. Un antennino, capito? Non è che può mettere l'antennone, capito? Che forse è per quello che ti sente così, non ti sente bene, capito? Certo, ma se lui fa potenza, Gio Maria, io lo sento. Ma io non posso lui potente, adesso non posso. Non posso adesso, però io non ce lo sento lui. Ascolta me, Gio Maria. Cosa sei? Perché è chiuso? Come? Hai il reperito chiuso. Mario! Hai il reperito chiuso, E io ce l'ho sempre normale, capito? Non lo tocco da così. Tutto aperto, sì, dix lock. Sì, tutto aperto, Sì. Perché? No, così sono anche io. No, sì, sei sempre... 4,5, sì, vai, con i picchi 6,5, non di più, capito? Ma forse quello che mi fa parecchio mi vuole 7, se non sbaglio. Ma vai tu un intero che mi vuole parecchio. Aspetta un attimo, Prova adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6,5, non di più, E la scarsa adesso l'ho preso, l'ho completamente sollevato, ma è così, dai, 4,5, sì, dai. Montata bene con l'antenna. Beh, senta tu. Questo, se l'ha montata bene con l'antenna. Beh, dice che l'ha montata bene. No, io lo sento perfetto, A tu. Lo sento benissimo io. E mi arrivi più forte, no? Se trattano di apparecchi che non tirano, perché sennò qua deve arrivare più forte. Senta questa. Ah tu, senz'altro per te è un po' zona d'ombra, senz'altro, perché qua rispetto arriva a 4,5 quei picchi, per cui e la radio è buona, insomma buona, io lo sento bene, ecco, tu lì. Evidentemente magari per te se tu sei un po' chiuso per lui, capito? Ma che antenna sta usando? Poi non lo so, che antenna stai usando? Già fa. Sto utilizzando la Ringo, Giovanni. Già lo sento da lui. La Ringo, hai capito, è va benissimo. È un'antenna che costa poco e va alla già va bene, ok. Ok. Adesso passo in QRT e vado a vedere un po' la situazione con te a mangiare. L'arringo sta usando a tu. Chiappa. E qua deve arrivare più forte, deve arrivare il cane. Adesso l'ho sentito un po', ma lo sento in mezzo al QRM. Non è che non arrivano, sicuramente arriva, però il QRM è più alto di lui. Che avete beh? Ma, boh. È stato qualcun altro, avanti vuoi entrare? No, no, no. Se riposo qua la voce, poi. Giovanni. Ah, un minuto. Era uno che uscito dai piedi. Ah? Era uno che è entrato e uscito dai piedi. Mi piace i miei, mi dice. Io vabbè, è un di chi ha mangiato troppo, rinunci, allora. E gli dà. Beh, dai, che qua la signora ci sono altre visioni, se no è un casotto. Qui ne approfitto, dai. Da pace, sentiamo alle prossime. Ciao tu. Buon proseguimento. Solo per adesso. Domani, dai, ce la risentiamo. Giampa, pompa, con chissà cosa. Guarda che arrivi pure qua, perché non è che non arrivi, no, ti copri il QRM, attacca le cose, che già ce li hai, cambio. Ehi, popolo, anche io adesso devo chiudere a fare il carico. Ci sentiamo, ciao, stanno bene. Ciao, ciao. Cioè, poi due volte ci riprovo più, un terzo, magari non fa. Poi non è che sono io. Poi c'è un problema, l'altro conto, questo non lo so. Comunque non insisto più di tanto. Io ho chiamato, secondo me ha detto a me, se vuole volare qualcosa arriva a lui. Perché non c'è problema, lo sai, lo dico a te, che va a fine in buone mani. Secondo me si è consigliato, non mi risponde, se devo fare. Io non insisto più di tanto. Allora vuol dire che se trovo qualche altro io lo do. Non è che poi mi viene a lamentarsi a dire che non va a lui. Capito? Tutto qua. Beh, d'altronde si è già detto così. Ma è strano, non vedo entrare a dire, boh, entrare un attimino, sai, non costa niente entrare, no? Ma fare altro bene, non lo so. Non lo so, ti ho chiamato, ripeto, la prima volta era occupato, due o tre giorni fa, o forse anche di più. E poi ho chiamato ieri, mi sa, no, ieri no. Quando cazzo era, so, mi ricordo, aspetta. Allora, il... 30 mi sembra, no, se non mi ricordo, comunque un paio di giorni fa. Ho capito, ma cosa vuoi dirti tu? Io ripeto, non l'ho più sentito, non so neanche cosa abbia, se ha solo problemi di trabacco, non lo so, però non l'ho più sentito, non lo so, veramente va. Idem. Cosa vuoi dirti? Non saprei cosa dire, non saprei. E perché ti stai vendendo tutto? Vabbè, mi sto vedendo tutto. Adesso ho deciso, va. Mi sono soldi, tu. Adesso devo fare la domanda lunedì alla disoccupazione, se no me la accettino. Se me la accettano mi tengo tutto. Adesso lo devo vedere, per forza. E non so di cosa fa. Anche quello è vero. Mannaggia. Insomma, è brutto non avere lavoro, non avere qualcosa che rientri, è brutto. Vabbè, purtroppo, andata così, cosa devo fare? Anzi, quindi, meno male che ho preso la radio lì, a meno, diciamo, quei soldi sono, diciamo, fermi, ecco, perché li ho presi sulla radio, ma comunque, va bene così. Tu mi ha detto che se devo fare qualcosa dillo a lui qua. Il che adesso vediamo, sono deciso se darlo o no. Vediamo, sono lì per lì. Purtroppo mi trovo un po' così. Mi sono su che devo pagare. Non posso occupare la concessione, non voglio dire tu, fai saldo. Dopo sono qui a terra, credimi. Ti credo. Ma tutto il tempo di gennaio c'è per pagare la concessione, lui, sai qualcosa? Tutto fino al 31. Allora c'è tempo ancora, io me la pago domani, così tolto il dente e tolto il dolore. Si conferma. Ehi. Ah, buon lucario, dai, che io voglio mangiare qualche cosa, se no non mi misciano. Va bene, dai. Mi ha fatto piacere ascoltare. Se lo sento glielo dico, perché è strano, molto bene, perché sta piovendo, è una giornata un po' triste. Se no ci sarei andato io a casa sua a trovarlo. E non c'è problema tu, dai, no, non provo. Va bene, dai, più tardi se coincide Lugarie, buon tutto, dai, alle prossime. Ciao, buon pranzo. E io ciao altrettanto.